Citolo, le sigle del lavoro. Stile pop swing narrativo, voce calda, ritmo da spiegone brillante. Se hai perso il lavoro non ti spaventare, c'è un piccolo mondo che ti può orientare. Tra acronimi strani e un po' di burocrazia, ti spiego in rima come va la via. La prima si chiama DID, segnatelo qui, è la dichiarazione di disponibilità. Sì, vuol dire sono pronto a lavorare, ed è con quella che puoi cominciare. La fai online o con l'info insieme, e certifica che non hai più un impiego da bene. Da quel momento sei disoccupato e puoi entrare nei servizi dello Stato. Poi c'è il SISL, nuovo portale, Ministero del Lavoro, servizio digitale. Serve a collegare chi cerca e chi offre formazione, impiego e altre risorse. Per usarlo ti bastano Espedio, CIE, la domanda NASPI o Discol già avviata da VIE. È qui che si seguono passo per passo tutte le tappe del tuo percorso senza impasso. Di Pulp e Spie, Easy e SIL, sembrano codici ma non è un quiz. Sono i passaggi uno per uno per rimettersi in gioco con ordine e nessuno. Ilpa del patto di attivazione digitale, un documento online, niente di speciale. Confermi che vuoi rimetterti in moto e autorizzi i tuoi dati, tutto a cos. Ci scrivi i contatti, firmi col click e dici al sistema ci sono io qui. Serve per avviare la presa in carico tra INPS, comune e il centro. Invece è più personale, lo firmi al centro per l'impiego, è reale. Lì si decide insieme a un consulente quale percorso è più efficiente. In un corso, un tirocinio, un'offerta adatta, il piano su misura che poi scatta. E infine l'ISE da non dimenticare, serve a capire quanto puoi richiedere o risparmiare. Misura il reddito e la situazione per bonus, aiuti e agevolazione. PSP, Easy e SIL, sembrano sigle ma è tutto un bis. Dalla domanda all'attivazione, sono i passi dell'inclusione. DIT per dire sono disponibile, PAPA per partire semplice e visibile. PSP per il piano da firmare, ISE per i bonus da richiedere o calcolare. E adesso che sai come va la trafila, ricorda ogni sigla è una piccola fila. Ma tutte insieme con calma e ragione ti rimettono in circolazione. Di Pulp e Spie, Easy e SIL, si va in